avec son équipe. Steve a mis au point différents réservoirs. Statement, any minute from now. 1-0 up. Ci sono novità anche su... Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile. Di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, bentornate e bentornati alla finestra sul cortile. Che supplizio! È tornata l'estate, anche quest'anno ci tocca denudarci e passare un po' di tempo su qualche spiaggia affollata. E per denudarsi è obbligatorio essere in forma, vietata la pancetta, bando alla cellulite. Ma nella storia dell'umanità la legge non è sempre stata questa, o almeno non così imperativa. Anzi, ci sono stati secoli in cui essere grassi, soprattutto per alcune categorie sociali, o quantomeno corpulenti, era un attributo normale, se non uno status symbol. E le donne, invece di mettere in mostra i loro corpi, li imprigionavano e nascondevano gli inestetismi sotto corpetti molto costrittivi. Ecco, delle fortune e sfortune dell'obesità parleremo in questa puntata della finestra sul cortile, ma parleremo anche del ritorno in auge delle spie, che per avere successo, per l'appunto, devono essere belle e in forma. Ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il sommario di oggi. Russia, spionaggio. La tecnologia fallisce. Gli uomini e le donne, no. Inghilterra, matrimonio che stress. Quando organizzare la festa fa più paura del sì. Visti dagli altri. Parigi, adesso il cinema italiano piace ai francesi. Francia, quando grasso era bello. Un libro racconta la storia dell'obesità. America, i 28 anni della Diet Coke, la bevanda che piace ai VIP. Il giorno dopo iniziamo l'addestramento. La tecnologia migliora ogni giorno e va bene, ma di solito basta un pezzo di gomma da masticare, un coltellino e un sorriso. È sconcertante. Ogni palazzo, ogni stanza, ogni situazione è un'istantanea. Mentre parlo con te, passo al setaccio l'ambiente, lo memorizzo, le persone, come sono vestite, e mi chiedo, c'è qualcosa di strano in quello che vedo, qualcosa di sospetto? Porta sempre con te sigarette e un accendino, rompono il ghiaccio. Estorci informazioni a qualcuno. Con piacere. Sai cosa le hai detto? Che sei eterosessuale, che sei fidanzato, che domani è la festa della tua ragazza e poi che non hai gusto in fatto di moda. E se fosse una spia anche lei? Le hai detto quattro cazzate che dovrai sostenere. Hai ragione. Che altro devo sapere? Mai rischiare vita o carriera per una spia con la gonna. Se la scelta è tra te e lei, manda dei fiori. Era una scena dal film Spy Game in cui Robert Redford interpreta un agente della CIA prossimo alla pensione che sta istruendo il proprio delfino Tom Bishop, interpretato da Brad Pitt. E proprio di spie parliamo in questa prima parte della finestra sul cortile, perché un articolo del Moscow Times fa il punto sul ritorno in auge della human intelligence nell'era delle tecnologie. Il fattore umano, cioè la spia in carne ed ossa, soprattutto se è interpretata da una bella donna, è molto importante nelle strategie di spionaggio delle grandi potenze di molte nazioni, in particolare della Russia. Ma perché questo ritorno delle spie tradizionali, come nei libri di Le Carré, come nei film di 007? Nell'articolo del Moscow Times si cita per esempio Robert Baer, un ex ufficiale della CIA, che dice: ma che bisogno aveva la Russia di spendere tutti questi soldi per questa rete di spionaggio quando in un paese democratico e aperto come gli Stati Uniti tutto è pubblico, basta leggere leggere la pagina dei commenti di Wall Street Journal, oppure aprire un account su Amazon e comprarsi le memorie scritte dagli ex agenti della CIA per capire dove si va a parare. Ma la verità è che di spie vere e proprie c'è bisogno, tant'è vero che molti attribuiscono il fiasco degli Stati Uniti nell'invasione dell'Iraq nel 2003 proprio perché mancavano delle presenze diplomatiche sul territorio e le informazioni sulle presunte armi di distruzione di massa arrivarono distorte e falsate. Certo, mettere delle cimici oppure fare delle intercettazioni telefoniche o usare gli hacker per violare i computer del Pentagono può magari aiutare a scoprire così quello che sta facendo un governo nemico, ostile. Ma se c'è una spia all'interno, diciamo, dei circoli più ristretti del potere e del governo, le cose si sanno in anticipo, magari con giorni, addirittura con mesi di vantaggio. Ecco perché l'insostituibilità delle spie. Ma intanto saluto il nostro ospite Maurizio Molinari, che chiamiamo al telefono a New York nel suo ufficio di corrispondente della Stampa. Buongiorno Molinari. Buongiorno. Ecco, lei ha letto questo articolo del Moscow Times, ma lei sta seguendo giorno per giorno anche questa vicenda delle spie russe. A quanto pare il Dipartimento della Giustizia americana fa una certa fatica a incastrarle, no? Ma sicuramente quello che scrive il Moscow Times in parte si ritrova nei documenti dell'FBI relativi all'indagine. Gli agenti federali che per 10 anni hanno seguito queste 11 spie russe hanno maturato una convinzione che il motivo per il quale i servizi segreti del Cremlino le avessero mandate in America fosse per esplorare la genesi della formazione delle opinioni che poi fanno una politica estera o economica della grande potenza americana. Cioè volevano entrare nelle viscere della formazione delle opinioni più strategiche del paese. Quindi agire molto di anticipo, molto nel background, diciamo, delle decisioni dei governi. Sì, ad esempio c'è un caso specifico, nel senso che una delle persone che erano state avvicinate dalla coppia dei Murphy che vivevano nei New Jersey era uno dei principali finanziatori di Hillary Clinton. Grazie a lui loro avevano accesso a Hillary e a quello che pensava Hillary quando parlava con i suoi più stretti collaboratori, e quello che gli agenti russi contro loro chiedevano ai Murphy era semplicemente di riportargli: ma di cosa si parla in casa Hillary? Insomma, ecco, anticipare i fatti, questo cercano oggi i gestori della spia. Infatti qui si parla di una intervista di questo Alexander Kuzminov, che era stato a suo tempo agente del KGB, e in un'intervista di qualche anno fa a una rivista della California dice che questi illegals, che non hanno una copertura diplomatica, no? Non hanno l'immunità diplomatica, come appunto forse in questo caso, vengono mandati in un paese magari per 15 o 20 anni proprio per scavare nel sottosuolo, insomma, per capire meglio le intenzioni di un governo prima ancora che le decisioni vengano prese. E qui anche il giusto paragone, come ricordato prima, con l'Iraq. Cioè quando Bush autorizza l'operazione militare nel 2003 in Iraq, ma anche quando autorizza l'attacco all'Afghanistan nel 2001, l'allora capo della CIA George Tenet va da lui e chiaramente ammette l'assenza di agenti di lungo termine sul territorio di quei due paesi. Nel caso dell'Afghanistan, Bush, durante un incontro con Tony Blair, l'allora premier britannico, gli chiede esplicitamente aiuto, e se non ci fosse stato, questa è una cosa scritta, raccontata, non svegliamo alcun segreto, ma se non ci fosse stato l'aiuto dei servizi segreti britannici, gli americani avrebbero avuto seri problemi a iniziare l'attacco all'Afghanistan 3 settimane dopo l'attentato alle due torri. Questo a conferma di quanto è importante avere questi agenti cosiddetti illegali sul territorio di paesi dove una nazione matura interessi strategici. Quindi potremmo veramente dire viva le spie, bentornate spie. Grazie a Maurizio Molinari, buon lavoro e buona domenica. A presto. Grazie a voi. E ci spostiamo in Inghilterra, sulle pagine del Daily Telegraph, un divertente articolo di Sarah Redford ci parla di ansia da matrimonio. L'autrice dell'articolo si deve appunto sposare, molte persone le chiedono ma sei nervosa? E lei dice sì, sono nervosa, ma non per le ragioni che tutti pensano, cioè legarsi per una vita con un'altra persona finché morte non ci separi, ma semplicemente per l'evento del matrimonio, l'organizzazione di tutto ciò che ci sta intorno, dal parrucchiere al catering, al colore dei tovaglioli. Dice si fa presto a dire sì, come in Inghilterra si dice I do, è molto più importante la lista dei to do, cioè delle cose da fare. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. Le cinema italien è bellissimo. Scritto così, come ve lo dico, è il titolo di un articolo sull'Express che ci introduce alla nostra rubrica settimanale sugli italiani famosi all'estero. Questa volta parliamo di registi e attori, perché secondo il settimanale francese una nouvelle vague di film italiani sta invadendo gli schermi d'Oltralpe con grande successo, un successo paragonabile a quello che nel dopoguerra accompagnava l'uscita e la traduzione in francese di film come I ladri di biciclette di De Sica o Il Gattopardo oppure Una giornata particolare di Scola. E dopo c'è stata una lunga notte e i francesi ci mazzolavano, soprattutto i critici cinematografici, a ogni festival di Cannes dicendo che i nostri film erano brutti. Adesso, scrive Christophe Carrière sull'Express, sono arrivati Il romanzo criminale di Michele Placido, per esempio, poi Gomorra di Matteo Garrone, Il Divo di Paolo Sorrentino, e adesso è il momento appunto di registi come Pietro Marcello, La Gueule du Loup, e tutto questo grazie anche ad una società di produzione consacrata esclusivamente ai film italiani e che si chiama per l'appunto Bellissima. Insomma, andiamo forte al Tour de France, e conoscendo lo sciovinismo dei nostri cugini d'Oltralpe deve essere costato caro questa ammissione che il nostro cinema va meglio. Forse si potrebbe parafrasare la famosa canzone di Paolo Conte: gli italiani che svolazzano e i francesi che si incazzano. La finestra sul cortile. In America tutto è più grande. Abbiamo le macchine più grosse, le case più grosse, le più grosse aziende, il cibo più grosso e infine le persone più grosse. L'America sta diventando il paese con le persone più grasse del mondo. Congratulazioni. Circa 100 milioni di americani sono sovrappeso o obesi, il che significa più del 60% degli adulti. L'obesità al momento rappresenta la seconda causa di mortalità dopo il fumo in America. Oltre 400.000 persone all'anno muoiono per malattie ad essa collegate. Nel 2002 alcuni americani, stanchi di essere sovrappeso, hanno avuto una brillante idea. Hanno fatto causa ai fast food, accusandoli di essere responsabili della loro obesità e dei disturbi che ne derivano. Questo cibo fa davvero tanto male alla salute? Allora, che succederebbe se mangiassi solo da McDonald's per 30 giorni di seguito? Sarebbe come prendere la scorciatoia per diventare un americano obeso? Sarebbe irrimediabilmente dannoso? Allora scopriamolo. Io sono pronto. Mettetemi all'ingrasso. Era un brano di Super Size Me, il documentario di Morgan Spurlock, che molto ha fatto discutere negli Stati Uniti e non solo, perché ha messo sotto accusa Ronald McDonald's, che in USA è più popolare di Gesù Cristo e che naturalmente è quello che ha fondato la catena di fast food più famosa del mondo. Ma proprio di obesità parliamo in questa seconda parte della finestra sul cortile a partire da un articolo di Thibaut de Saint-Paul sulla rivista online francese La Vie des Idées. Il titolo è L'obèse entre gloire et opprobre ed è sostanzialmente l'obeso tra gloria e obbrobrio ed è una recensione di un libro di Georges Vigarellot, Les Métamorphoses du Gras, Histoire de l'obésité, pubblicato da Seuil, che traccia una storia appunto del rapporto tra l'umanità e il grasso. È un rapporto che si è evoluto nei secoli perché, come si dice appunto in questo articolo, nel Medioevo era associato ad un peccato, i golosi finivano in un girone dell'inferno. In seguito, durante il Rinascimento, il fatto di essere grassi era più associato alla pigrizia o alla lentezza, e poi nel secolo dei lumi l'obeso diventa un personaggio inutile e improduttivo, incapace di contenersi. E però ancora fino all'Ottocento, ai primi del Novecento, anche le donne, che pure avevano più cura del proprio aspetto fisico, tendevano a nascondere gli inestetismi, come li chiamiamo oggi, con dei corsetti che ne imprigionavano le forme e modellavano i corpi. E comunque c'è sempre stato un problema di misura, di soglia dell'obesità. Che cosa vuol dire essere obesi? Come si misura il fatto di essere sovrappeso? Ma intanto salutiamo il nostro ospite che abbiamo al telefono, professor Massimo Montanari. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi, storico medievista e storico dell'alimentazione all'Università di Bologna. Ecco, da questo libro pare di capire che l'obesità nella storia abbia subito più condanne e riprovazione che onori, no? Ma io credo che questo sia corretto se parliamo di obesità, però c'è anche un minimo di equivoco, secondo me, anche nei discorsi che si facevano prima. Obeso e grasso non sono esattamente la stessa cosa, ecco. Perché obeso è già una parola che contiene in sé una condanna di tipo morale, di tipo medico, di tipo estetico. E però l'obeso è in fondo il punto limite di una cosa che si chiama grasso e che ha anche delle declinazioni un po' più morbide, più delicate, diciamo. Meno riprovevoli, diciamo. Meno riprovevoli. E da questo punto di vista la storia delle immagini culturali attorno al grasso è abbastanza complicata, perché non c'è dubbio che il grasso che oggi ci fa così paura, per una grandissima parte della nostra storia invece è stato percepito come qualcosa di estremamente positivo. Ecco, ma Vigarellot appunto tra l'altro mette in luce che per esempio fino a poco tempo fa, insomma, c'erano dei ruoli e delle professioni in cui l'essere corpulento era quasi uno status symbol, no? Per esempio pensiamo all'oste o al panettiere o al macellaio, no? Certo, ci sono anche dei proverbi popolari che dicono che un oste ben pasciuto è la migliore pubblicità al suo locale. Secondo me, poi, se andiamo al Medioevo, lei giustamente citava prima riprovazioni dell'obesità e del grasso nel Medioevo, ma il Medioevo è un'epoca di grande esaltazione del grasso. Pensiamo soltanto a un paio di esempi. Bologna grassa, questo attributo che Bologna, la mia città dove lavoro, si merita a partire dal Medioevo, non è un aggettivo che le viene affibbiata per dileggiarla, ma al contrario, per ammirarla. È un simbolo di opulenza, di ricchezza, di benessere, di abbondanza. Postiamoci al di là dell'Appennino, Firenze nel Medioevo, la ricca borghesia cittadina si autodefinisce popolo grasso, per dire noi siamo quelli che stanno bene. Ecco, invece adesso spesso, come dice appunto Thibaut de Saint-Paul, l'obesità è associata alla povertà o comunque all'appartenenza a una classe sociale disagiata. Mentre in passato il grasso era un po' un segno di privilegio, con il tempo è diventata una realtà sempre più democratica, con tutti i problemi che questo ha comportato sul piano anche della medicina. Sono fenomeni paradossali, è come se si fosse innescata una contraddizione fortissima tra una cultura che storicamente ci ha insegnato a valorizzare il grasso come elemento positivo e dei dati economici che ci hanno reso facile diventare grassi, perché la cultura di un tempo perché dava così importanza al grasso come elemento positivo? Perché era difficile diventare grassi. Ecco, cerchiamo di goderci la buona tavola ma senza eccedere. Ringraziamo il professor Montanari, buona giornata e a presto. Buona giornata anche a voi. È stato il carburante fondamentale della macchina elettorale di Barack Obama a Chicago ed è la bevanda preferita di Donald Trump, di Elton John, di Victoria Beckham e perfino di Bill e Hillary Clinton. Stiamo parlando della Diet Coke, nata 28 anni fa, il 4 di luglio nel 1982. Pare che all'inizio, quando si cominciava a badare, essere preoccupati per la linea, appunto di questo stiamo parlando, la compagnia Coca-Cola si cominciò a interrogare sul fare una bevanda senza zucchero e si parlò di varie denominazioni, da Abzu, Aku, Ak, Zap, Zorg, Zuf. Alla fine si scelse Tab negli anni 60, ma poi nel 1982 si decise di chiamarla semplicemente Diet Coke. Che cosa non si fa per restare in forma? E se un giorno si scoprisse che fa male alla salute? E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora.